America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, Madison Square Garden. Sentite. America me basse hue mere pyare bhaiyo aur behno. Ecco, forse avrete colto il nome Modi e il primo ministro indiano Narendra Modi. È lui che ha raccolto una folla di quasi 20.000 indiani che sono venuti da ogni angolo degli Stati Uniti, del Canada, per sentirlo parlare. Modi è un idolo, come sapete ha vinto le elezioni in India con una grandissima maggioranza e un nuovo primo ministro di una nuova forza politica, ha rotto con il passato, è incorruttibile, lo considerano assolutamente al di sopra di qualunque possibilità di corruzione, è gentile, non ama la burocrazia, vuole tagliare assolutamente la burocrazia. Il suo motto è meno governo, ma più governabilità. Beh, potrebbe sembrare un repubblicano, potrebbe sembrare in alcuni suoi slogan addirittura il nostro presidente del Consiglio Renzi. Ecco, oggi Modi è a Washington e alla Casa Bianca. Barack Obama vuole convincerlo a entrare a far parte della coalizione contro l'ISIS. L'India è una potenza anche militare molto importante, sul piano simbolico sarebbe come dire determinante per gli Stati Uniti poter includere un'alleanza esplicita dell'India nella battaglia contro l'ISIL in Iraq e in Siria. Vedremo come andrà questo incontro di oggi fra Barack Obama e Modi, perché se dovesse andar bene, Barack Obama potrebbe rivendicare quella leadership americana che sta cercando disperatamente di recuperare. American leadership is the one constant in an uncertain world. That was true this week as we mobilized the world to confront some of our most urgent challenges. Ecco, Barack Obama, lo avete sentito sabato, ha parlato di leadership americana, dice: grazie alla leadership degli Stati Uniti siamo riusciti a mettere insieme una grande coalizione internazionale, ora abbiamo oltre 40 paesi che stanno lavorando con il governo iracheno e con l'esercito iracheno per poter sconfiggere l'ISIS. Ci sono dei progressi, dall'Iraq sembra che Baghdad, che il nuovo governo, si è riuscito a recuperare molti dei soldati che avevano disertato per paura di essere massacrati dalle forze barbariche dell'ISIS. Dunque qualche movimento in avanti c'è. Questo incontro col primo ministro indiano di oggi sarà importante per capire se questa leadership che vanta il presidente Barack Obama è una leadership effettiva oppure una leadership un po' offuscata. Anche perché, diciamolo, gli Stati Uniti, e questo per testa ammissione ieri tra l'altro il presidente Barack Obama, hanno sbagliato, non hanno dato la valutazione giusta di quello che poteva essere la minaccia dell'ISIS. Ma posso dirvi che fino ad alcuni mesi fa, parlando con alti funzionari del National Security Council, quando gli chiedevo qual è la minaccia più grave che sentite nei confronti dell'ordine internazionale, nei confronti della stabilità, e mi continuavano a dire: al numero uno l'Ucraina, al numero due il fronte del Mediterraneo al largo delle coste libiche. Ecco, non c'è stata una menzione dell'ISIS, e la domanda di fondo che si pongono gli americani è: ma com'è possibile che ci si sveglia un mattino e all'improvviso ci accorgiamo, nonostante abbiamo la National Security Agency, nonostante Snowden ci abbia indottrinato dicendo che l'America controlla tutto, segue tutti, è in grado di avere qualunque informazione, ebbene, com'è che non si è accorta che l'ISIS aveva messo insieme un territorio grande come la Gran Bretagna? Barack Obama ha risposto a questa domanda, sentiamolo. Well, I think our head of the intelligence community, Jim Clapper, has acknowledged that I think they underestimated what had been taking place in Syria. Ecco, il presidente intervistato da Steve Croft della CBS a 60 Minutes dice: credo che Jim Clapper, che è il capo di tutto l'antiterrorismo americano, riconosca che la nostra intelligence aveva sottostimato la minaccia di ISIS. Nel frattempo i bombardamenti degli Stati Uniti e dei paesi arabi alleati continuano, ma Barack Obama ha fatto un discorso a tutto campo in questa intervista. Tra l'altro vorrei aprirvi una parentesi molto curiosa, molto interessante, perché È molto difficile avere delle interviste con Barack Obama, per esempio a noi giornalisti europei ancora non è concessa una diretta, nel senso che soprattutto le ultime interviste che ha dato anche ai grandi giornali italiani sono state delle interviste a domanda e risposta scritta. Cioè vengono presentate una serie di domande, ci sono dei funzionari del National Security Council che rispondono a queste domande per conto e a nome del Presidente, e qualcuno dice che il Presidente poi rivede queste risposte che vengono riconsegnate e noi diligentemente pubblichiamo questa come fosse un'intervista. Ecco, i giornali americani e i media americani questo lo rifiuterebbero, noi purtroppo dobbiamo accontentarci di quel che passa il convento, ma pensate, Steve Croft, che ha intervistato appunto il Presidente degli Stati Uniti ieri e che lo ha intervistato varie volte, è stato il primo ad intervistarlo subito dopo l'elezione di Obama, un rapporto molto forte con la Casa Bianca e con questo Presidente, mi raccontava alcuni mesi fa di essere stato avvicinato dalla Casa Bianca per capire se era interessato ad avere un'intervista e l'ha rifiutata, ha detto no, beh in questo momento no, non vogliamo avere una sovraesposizione, aspettiamo alcuni mesi. Beh, devo dire, beato lui che se lo può permettere. Sentiamo intanto Boehner, John Boehner, intervistato da George Stephanopoulos su ABC, e ve lo ricordo, Boehner è il presidente della Camera sotto il controllo repubblicano. If the goal is to destroy ISIS, as the president says it is, I don't believe the strategy that he outlined will accomplish. Ecco, Boehner è critico, dice che se l'obiettivo è quello di distruggere ISIS, non credo che la strategia proposta dal presidente sarà efficace. Ci vorrà qualcosa di più di semplici attacchi aerei. A un certo punto qualcuno dovrà combattere sul campo, forse potremmo addestrare le forze irachene, ma qualcuno dovrà combattere sul campo. Stefano chiede, e beh, se quelli non saranno in grado di farlo, toccherà agli Stati Uniti. Boehner risponde: non abbiamo altra scelta, questa gente non ha scrupoli, se non li distruggiamo ne pagheremo le conseguenze. Ecco, c'è un quadro molto complesso, dunque alla chiusura degli interventi principali alle Nazioni Unite, formalmente i lavori continuano ancora fino a venerdì prossimo, ma di fatto il grosso dell'Assemblea Generale, con la presenza dei leader, dei capi di Stato e di Governo, è ormai aggiornato. Barack Obama ha chiuso un cerchio che era partito da Newport al vertice NATO, quando ha annunciato per la prima volta che gli Stati Uniti avrebbero potuto attaccare la Siria, avrebbero creato una coalizione contro l'ISIL. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Robin Williams, lo ricorderete, l'11 agosto è stato trovato senza vita in casa sua a California, aveva solo 63 anni. Sabato notte, durante il weekend, c'è stato un concerto a San Francisco dedicato a lui, un memorial dedicato a Robin Williams. Stevie Wonder ha diretto l'orchestra della Glide Memorial Church e dunque di lui ascoltiamo, dedicato a Robin Williams, di Stevie Wonder, A Place in the Sun. Like a branch on a tree, I keep reaching to be free, moving on, moving on. There's a place in the sun where there's hope for everyone, where my poor restless heart gotta run. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.